certuni non imparano, anche se stanno al mondo 70-80 anni, fanno ancora di quelle cappelle, fanno ancora di quei fiaschi. Ma sei venuto al mondo proprio per non imparare niente? Impara a stare al mondo. Rispetta il creato, rispetta la montagna, rispetta la spiaggia, sì sì, rispetta la tua famiglia, rispetta le persone con le quali vivi, rispetta la vita, sì, impara a stare al mondo e impara a mangiare i fichi d'India sbucciandoli, impara a mangiare le patate dopo averle cotte, anche le ortiche puoi mangiare e si fanno anche gli spaghetti con le ortiche, purché siano cotte, impara. L'ortica ti dice, impara a trattarmi, a toccarmi, impara. Tutti siamo al mondo per imparare, tutti. A volte ne combiniamo delle cose storte perché non abbiamo neanche imparato dal naso alla bocca. E chi è che ci ha insegnato a pulirci il naso con buona creanza? Siamo venuti al mondo senza sapere come fare a pulirci il naso. E ci ha insegnato nostra madre, brava. E quando saremo là, vecchiotti, là, vicini al traguardo, chissà, torneremo come bambini. E ci sarà qualcuno che ci pulirà il naso. Per dir così, tutta la vita è un apprendimento. Perché tutto è stato organizzato da un genio. Un genio. Un genio immensamente grande, sperticato, si dice. Sperticato vuol dire che non si può misurare con le pertiche, Una misura che conoscono bene i mantovani, vero? Non si può misurare il genio di Dio, stupendo nelle grandi cose e meraviglioso in quelle piccole. Noi siamo al mondo in continua aula di scuola. Questa è un'aula di scuola. Sì, ci impieghiamo un secolo a imparare, ma si vive anche meno di un secolo. Noi saremo sempre nella gioia. Servite il Signore nella gioia, abbiamo recitato insieme al Salmo 99. Servite il Signore nella gioia. E perché non sempre siamo nella gioia? Ve lo dico. Mi dovete scusare se qualche volta parlo di me, perché così si è più comunicativi, ecco, si capiscono meglio le cose. Qualche anno fa, qualcuno lo sa certamente, sono stato ricoverato all'ospedale di Albano, nel Lazio, per una fistola terribile, noiosissima, più di 40 giorni. Me l'aveva detto il chirurgo, l'operazione, padre, non durerà più di 40-45 minuti, ma l'avverto fin d'ora, che dopo avrà una convalescenza molto dolorosa. Bene. I primi 2-3 giorni credevo di non farcela durante le medicature, ma una mattina, mentre sudavo, dico, Signore, hai ragione tu, in questo momento, mentre mi stritoli, hai ragione. Da quel momento non è che io non abbia più sentito dolore, avevo davanti ancora 35 giorni. Ma una gioia che non vi dico. E quando penso a quelle settimane di tortura, dico, ma non avevo mai pensato di essere capace di soffrire quello che ho sofferto. Dopo aver dato ragione a Dio, prima no. La gioia nostra è dar ragione a Domine Dio, che la sa più lunga di noi, che fa sorgere il sole sulla nostra strada e dispone anche la luna, dispone la salute, dispone la malattia, dispone la felice sorte e la infelice sorte, per dir così. Tutto è disposto, il caldo e il freddo, la pioggia e la siccità, tutto è disposto. La buona riuscita negli affari e anche qualche insuccesso, tutto è disposto, diamogli ragione. Che allora noi sentiremo di essere padroni, signori. Sentiremo una gioia speciale, strana, finché volete, anche quando fossimo colti da un mal di testa, da un mal d'orecchi, mal di denti. Oh, diamo ragione al Signore.